Ecco, vi do il benvenuto, vi ringrazio di essere così numerosi, saluto il nostro ospite Roberto Masero, che mi fa piacere di incontrare questa sera insieme a voi, di sentire appunto dalla sua viva voce come è nato questo racconto, questo romanzo, La distanza degli abbracci. E non è la prima volta che viene presentato questo libro, ma è stato già ospite qui a Bolzano con grande successo, ed è per quello che la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, negli spazi dell'Associazione Il Cristallo, ha pensato di riproporlo, e vedo che il pubblico ha risposto bene a questo nostro invito, mi fa piacere. La biblioteca si occupa di tante cose, noi raccogliamo documentazione, saggistica, riguardo tutto lo scibile, ma una cosa che ci differenzia da altre strutture qui sul territorio è proprio quella di dedicarci in maniera certosina a quelli che sono gli scritti relativi al nostro territorio in lingua italiana, quindi autori locali oppure persone che raccontano o descrivono, documentano qualche aspetto della nostra vita che ci accomuna. È un lavoro che portiamo avanti da 15 anni. Crediamo molto anche nelle occasioni di incontro fra autore e pubblico, perché in queste circostanze nascono degli scambi interessanti. È sempre bello conoscere chi ha voluto scrivere e trasmetterci delle sue emozioni, delle sue idee attraverso il libro, che se cartaceo oppure scaricabile in PDF, non importa, è sempre una condivisione, un atto anche di generosità, di comunicazione nei confronti di altri che non si sa chi siano, perché il fatto di scrivere poi non si sa chi sia il destinatario, sempre non si ha in mente una persona, ma una collettività che poi risponde a certi stimoli. Crediamo anche nella lettura, perché la lettura, il libro, la trasmissione di questi saperi, ma soprattutto anche di opinioni e di emozioni, sono un collante strepitoso e un'occasione anche irripetibile per progredire e per crearsi un percorso a qualunque età, ecco, un'idea di libertà che insomma possiamo conquistarci giornalmente. Io ringrazio sempre anche gli autori che si prestano a venire a raccontarci, a mettersi appunto a nudo, tra virgolette, di fronte alle persone che poi chiedono, perché sono sempre curiose di capire come nasce un'idea, come viene sviluppata, come si vince anche questo impatto con la carta, no? Questo iniziare a costruire, a strutturare un romanzo, un libro, che sia di saggistica come anche un'opera di narrativa come in questo caso. E diciamo che per noi operatori della lettura e della biblioteca è anche sempre un'occasione interessante di conoscere l'autore, perché il bello del nostro lavoro è anche il contatto con le persone che i libri li scrivono e le persone che i libri li leggono. Quindi io la ringrazio tantissimo, ringrazio voi. C'è un po' di materiale informativo lì sulla biblioteca, siamo in via Mendola 5, operativi tutti i giorni della settimana tranne la domenica. Se avete piacere di venirci a trovare, abbiamo tanti modi per esservi utili anche da casa, quindi se poi vi iscrivete potete usare tanti servizi comodamente da casa propria. Grazie e buona serata. Poi vediamo se servirà il microfono, perché potremmo anche sentire più voce. Allora, intanto devo smentire la dottoressa Trevisan in questo senso, che non è la biblioteca che deve ringraziare, ma sono gli autori che devono ringraziare come me in questo caso, perché in realtà questo libro che è uscito sostanzialmente, che presento questa sera, La strana distanza dei nostri abbracci, è uscito esattamente a dicembre dell'anno del 2013, per cui circa compie un anno di vita, poco più. Questo libro, dunque, ho cominciato a presentarlo al pubblico in un momento non favorevole, perché ormai non era possibile presentarlo durante il periodo più favorevole per la divulgazione dei libri, che è naturalmente il Natale, perché è diventato un ottimo oggetto da regalo. E quindi ho cominciato nel 2013 in modo così abbastanza modesto a presentarlo. La prima volta è stato presentato proprio qui a Bolzano e poi facevo una bella manifestazione anche al centro Trevi, poi sono andato in giro perché in altre città. Dunque dico che quando si tratta di grande editoria, di editoria celebre, probabilmente dietro esistono delle case editrici estremamente attrezzate di ufficio stampa, eccetera, eccetera. Per cui in qualche modo il lettore è incanalato a scegliere dei prodotti, perché il libro è anche un prodotto, oltre che essere un fatto di cultura, verso determinati oggetti che sono proposti nelle librerie dalle grandi case. E letteratura di qualità, e qui non mi riferisco immodestamente al mio romanzo, ma in genere sto scoprendo veramente una profusione interessantissima di buona letteratura. Questo tipo di letteratura vive anche attraverso il passaparola. Ora, questo è il caso di questo libro. Questo mio romanzo è giunto ormai alla terza edizione. In realtà questo è stato un successo che è derivato da un pubblico estremamente attento e generoso, il quale l'ha preso, ne ha parlato e poi per questo meccanismo meraviglioso del passaparola l'ha diffuso e quindi ha avuto successo. Dunque queste presentazioni sono anche estremamente utili. Devo dire che non sempre è opportuno conoscere l'autore, perché qualche volta gli autori deludono, nel senso che ci sono degli splendidi scrittori i quali sul piano umano magari poi deludono, perché o sono particolarmente scarni di parole. Mi viene in mente, non so, forse voi non lo conoscete, ma l'italiano Trevisan, per esempio, che è stato uno dei migliori autori dell'età contemporanea, è un orso praticamente. Adesso ha cominciato a fare teatro, ha fatto anche film, però era sicuramente uno che alle presentazioni bisognava tirargli fuori le parole. E quindi questa cosa può essere anche negativa. Per cui qualche volta è bene che sia il libro a parlare e nel suo silenzio. In questo caso io devo dire, insomma, che invece ho un sacco di cose da dirvi, perché prima che voi possiate affrontare, se non lo avete già fatto, questo libro, mi piace di dirvi di questa avventura che io ho vissuto nello scriverlo. Mio malgrado devo fare un po' di biografia, nel senso che sono nato a Bolzano, sono nato all'inizio degli anni 50 e ho vissuto qui in Alto Adige praticamente fino al 1970, quindi ero un adolescente, dopodiché mi sono trasferito nel Veneto. Quindi in qualche modo ho conosciuto l'infanzia, la prima adolescenza, ahimè ho anche vissuto il clima terribile che si respirava nel momento più cruento della prima fase del terrorismo, e poi magicamente nel 1969 non ci fu nessun atto di terrorismo. E quindi non a caso il mio libro si gioca tutto in un'estate stupenda, che è quella del 1969. Il 1969 è stato un anno incredibile per un sacco di fatti. Per esempio, ricorderete che nel 1969 c'è stato il primo allunaggio, la prima volta che un uomo, anche l'ultima, che un uomo ha messo piede su un satellite. Eravamo però anche in un momento storico particolare, perché da una parte stavano crescendo i movimenti beat, Woodstock, per esempio, se vi dice qualcosa, le canzoni di John Baez, insomma tutta una serie di personaggi oggi diventati mitici che infiammavano i giovani e facevano cadere almeno nelle aspettative le barriere sociali. Quindi per esempio erano gli anni in cui si contestava la guerra del Vietnam, i ragazzi si incatenavano ai cancelli, si lottava magari per delle avventure che avvenivano dall'altra parte del globo, delle esperienze particolari. Ma a Bolzano, punto di domanda, invece, in questo, io lo chiamo liquido amniotico particolare, la città era cristallizzata, nel senso che si poteva parlare di grandi ideali fuori, ma nella nostra città in realtà i tedeschi e gli italiani in quel momento si guardavano in cagnesco, se non si guardavano in cagnesco, diciamo che in qualche modo si ignoravano. Diciamo che l'unico punto di contatto veramente forzato erano le Gasthaus, dove necessariamente vivevano gomito a gomito, dopodiché ognuno viveva nella propria enclave. E allora, diciamo, io sono nato in via Cagliari numero 3. Via Cagliari numero 3, che già allora in modo dispregiativo veniva chiamata con il nome di Shanghai, e che oggi invece è stata nobilitata dal fatto che viene chiamato quartiere Don Bosco, ha tutta una sua mitologia, perché in effetti era per certi aspetti un posto favoloso. Naturalmente stiamo parlando delle casette, delle semi rurali, che erano un villaggio della città. Lì c'erano ex meridionali, ex veneti, ex gente che veniva da Rovigo perché c'era stato l'allagamento, la tracimazione del Po. Ex perché in realtà nel momento in cui arrivavano qui si portavano il proprio patrimonio. Poi magari leggeremo anche un passaggio di questa cosa, ma anche perdevano una parte della propria identità. Tuttora, se voi fate riferimento al dialetto che si parla a Bolzano, scoprirete che è un dialetto che non esiste altrove, perché è un misto di trentino, di veneto, è un qualcosa che ha l'accento del trentino, però la terminologia è quella veneta. Quindi in qualche modo uno in parte si espropriava anche della propria identità, parzialmente però, perché chiaramente, per esempio, mia madre, che era nata nella bassa veronese, in quella di Colonia Veneta, praticamente credo che abbia imparato perfettamente la lingua di qui, perché lei tutta la vita ha parlato sempre ed esclusivamente nel dialetto terribile di Colonia Veneta. E quindi era un mondo a sé, un mondo particolare, un mondo fatto di gente che in qualche modo aveva dovuto lasciare le proprie case, così come si affronta in qualche modo un'emigrazione. Ed erano approdati qui e vivevano quindi in quel mondo in cui il messaggio principale era lavorare, cercare di genericamente di comportarsi bene, di andare a votare, perché era gente che aveva appena sofferto l'ultima terribile guerra mondiale, per cui aveva conquistato l'idea del voto. E questa gente qui in realtà aveva creato questa comunità che si chiamava la comunità di Shanghai. Praticamente, e qui corrispondo cerco di interpretare il senso della domanda della signora, che apprezzo, è quello di dire no, questa gente qui aveva effettivamente delle radici molto, molto profonde nei luoghi d'origine. Certo che sì, perché in effetti nelle semi rurali si trovavano pochi fiori, trovavi i pomodori, trovavi l'insalata, trovavi le piante dei fagioli, perché in realtà questa idea che si portavano su era quella di riuscire a ricreare questo microcosmo, di anche non soltanto economico ma anche affettivo, che in qualche modo avevano dovuto lasciare nei paesi d'origine. Ora, entriamo un pochino nel vivo del senso del mio romanzo. Allora, intanto vi devo fare una confessione drammatica. Il libro non è una autobiografia, è un romanzo in cui appaiono naturalmente degli echi di esperienze che in qualche modo ho vissuto. Altre sono frutto di pura fantasia, magari ve lo segnalerò quando leggiamo qualche passo, ma questo non è importante. Quello che devo dire è che avendo vissuto 18 anni qui, mi sono reso conto, quando poi avevo cominciato a praticare la letteratura, avevo intenzione di finalmente di costruire una storia che riguardasse l'Alto Adige, mi sono dovuto fare una specie di lavaggio dell'anima e anche con estrema umiltà di dire che io, finché ero vissuto qui, non avevo capito nulla. Cioè, gli italiani che vivevano in quel momento, i ragazzi soprattutto, vivevano come potevano vivere, come possono vivere i ragazzi di oggi, ma con consapevolezza zero di quello che gli accadeva intorno. Noi facevamo l'autostop, andavamo a ballare magari a Cavallese, impiegando 6 ore sperando che qualcuno ti prendesse su, arrivavi su che era buio ed era troppo tardi, tornavi a casa perché sennò era troppo tardi. Però di quello che accadeva dal punto di vista, tra virgolette, politico, eravamo assolutamente sprovveduti. Il massimo della consapevolezza era il fatto di avere il 4 di novembre una bandiera appesa fuori, magari andare a vedere la manifestazione delle forze armate, e conci che questo era il nostro limite di consapevolezza. Forse non ci interessava neppure molto, e probabilmente neppure i nostri genitori erano particolarmente interessati, perché loro avevano una missione da compiere, che era quello di sbarcare di un anno, e questa consapevolezza in realtà annullava qualsiasi altra situazione. Per cui, quando mi sono accinto a scrivere La strana distanza dei nostri abbracci, ho dovuto in qualche modo ripercorrere quella storia che all'epoca mi era mancata. Infatti questo romanzo in realtà descrive una storia che all'epoca era rara, se non impossibile. La affronta attraverso gli occhi di due adolescenti, di ragazzi che poco meno che ventenni, una storia d'amore complicatissima, in cui si vede drammaticamente che Rudy, il protagonista, si interessa di poesia, è appassionato di letteratura, ama la bellezza, spero che me ne dia teatro, si può amare la bellezza, perché la bellezza che ci circonda, e che circonda in particolare l'Alto Adige, è grandiosa. Quindi queste cose sì, mentre invece questa ragazza con la quale lui si scontrerà violentemente, di cui si innamorerà e che si chiama Francis, lei è una specie di piccola Beatrice alla rovescia, nel senso che se Beatrice ha accompagnato Dante Alighieri verso il paradiso, in realtà questa Francis è una ragazza tedesca molto consapevole, perché a differenza di noi ragazzi tirolesi, avevano da sempre maturato questa necessità di fare squadra, l'esigenza di sentirsi un corpo unico, perché in realtà la storia li aveva assolutamente penalizzati, e quindi ogni persona tedesca doveva avere in sé il senso della, si può dire, della sudtirolesità, se me lo passate, insomma. E quindi Francis è una ragazza tedesca consapevole che suo malgrado si innamorerà di Rudy, e quindi vivranno insieme una esperienza. Ecco, per me questo romanzo, dicevo, ha avuto questo significato, quello di portare in un libro, credo forse anche, non vorrei essere vanitoso, ma vorrei dire per la prima volta da parte di un autore di lingua italiana ed estremamente in chiaro, di sviluppare quelle che sono state anche le ragioni della storia che ha visto questa terra frutto di una spartizione e poi anche di una forma di colonialismo. detto da un italiano quale io sono, e insomma è una cosa, è una missione anche abbastanza importante, perché io poi, prima di scrivere questa cosa, mi sono anche documentato, c'erano i libri di Zoderer, l'italiana, e poi ci sono venuti altri libri importanti, tipo anche nel recente passato Eva Dorme della Melandri, ma soprattutto erano di autori tedeschi come Gatterer, come per esempio la Gruber, anche quell'autrice Misty Lingue, che ha scritto L'animo leggero, non so se voi l'avete letto, però in realtà con esclusione della Gruber sono tutti libri che danno per scontato che la questione altoatesina sia conosciuta, e quindi fanno dei passaggi abbastanza, come dire, incomprensibili forse anche da parte di un'utenza che non sia tipicamente altoatesina. Anche l'ultimo libro, che si chiama Stilbach o della nostalgia, non so se l'avete letto, si starà presentando a Bolzano una trasposizione teatrale di un'autrice meranese. In realtà parla della questione altoatesina, però parla delle fosse ardeatine, fa degli accenni al fatto che qui sono passati i nazisti, eccetera, eccetera. Però qualche libro che riesce in modo lineare da dove sono partite le problematiche e che le affrontasse, anche se attraverso un romanzo, non l'avevo trovato. Per cui immodestamente mi sono accinto a fare anche questa cosa. Visto che non voglio fare un congresso, vorrei staccare questa cosa magari leggendovi qualcosa che riguarda magari il quartiere di Shanghai, cosa ne dite? Così è una gentilezza, giusto per non deludere gli amici che sono qui stasera. Quanti sono coloro che in qualche modo vivono nell'ambito di questo quartiere o di Shanghai, oppure, e che invece vivono magari da un'altra ora? Diciamo, quanti sono coloro che sono più interessati a sentire Mara, perché la conosco, e poi non so se c'è qualche altro? Bene? Bene, anche, vabbè. Quindi diciamo che non vi annoio se vi leggo qualcosa che riguarda il quartiere. E vi parlo proprio dei migranti a Shanghai. Il libro non è sempre descrittivo, è fatto di dialoghi, di contrasti, eccetera, ma questa è una parte prettamente descrittiva. Shanghai, in fondo, era un quartiere abbastanza a posto. Una marea di casette a due soli piani, ognuna identica alle altre. Minuscole celle di un alveare, ogni casetta destinata a quattro famiglie, avevano un'aria paesana, se non fossero state costruite con una seriale e rigorosa geometria fascista. Le semirurali erano circondate da un fazzoletto di terra che non era quasi mai coltivato a giardino. Rivelavano l'origine rustica e pratica degli abitanti, dove l'insalata, i pomodori e i piselli avevano decisamente il predominio su ogni altra fioritura non commestibile. Più oltre, ad ovest, all'incirca dove si apriva la piazza Don Bosco, riprendeva una teoria di palazzoni decisamente anonimi, anche se vantavano una sostanziale e più confortevole modernità. Disponevano del bagno con la vasca e, indicibile segno di riscatto sociale, anche del bidet. La gente che viveva a Shanghai, specie quella migrata nel secondo dopoguerra, aveva in mente un progetto: lavorare. E quello successivo era lavorare. La denominazione asiatica del quartiere, che secondo le intenzioni di chi ne aveva coniato il marchio doveva essere dispregiativa, rivelava profeticamente una caratteristica alacrità. Tante famiglie erano risalite dalle avare terre padane, suggestive ma con le pezze al culo. Gran parte di quegli uomini di buona volontà si era meritata un posto fisso da operai nella nuova zona industriale. Anche mio padre, a seguito di quella casuale comunità, aveva piantato la propria bottega di alimentarista in piazza Don Bosco. Si sa che la religione del buon cibo di paese, quello natio, non affievolisce nemmeno dopo che sono passate intere generazioni. Riposava qui la modesta fortuna di mio padre. Era spettacolare ascoltare l'innocente mistificazione che contagiava le memorie di tanti emigrati. Quasi sempre associavano al ricordo di certi insaccati o pietanze o formaggi, senza parlare del vino, l'improbabile credenza che i luoghi lasciati con deludente amarezza fossero l'Eldorado. Di questa illusione, che valeva anche per descrivere i rapporti umani di quei paesi in ristrettezze, emergeva la mitica abbondanza di frutta succosa, espiccata direttamente dalle piante, di patate farinose, di campagne fertili e maiali grassi. Non importa se da tanto benessere in gioventù erano scaturiti pranzi di polenta, appena insaporita sfiorando la pelle di una ringa fumigata. I transfughi erano ambasciatori e nel cuore di Shanghai avvenivano traffici inimmaginabili. Le nostalgie si sanavano provvisoriamente dopo ogni festività, quando rientravano certe carovane di Fiat 600 col prezioso carico sulla gobba del tetto. I parenti della bassa erano prodighi con i familiari trasferiti così lontano, quasi che dovessero risarcirli di un distacco penoso. Quindi in questo ambiente è cresciuto Rudy, il protagonista del nostro romanzo. Il contesto è questo. A un certo punto Rudy, da poeta e da autore di una certa letteratura, decide di scrivere una commedia. E questa commedia, che non finirà mai, in parte, che dura un quarto d'ora, gli viene espropriata da un gruppo di amici, i quali a un certo punto la prendono e la portano in piazza Matteotti, dove la rappresentano. Circa in piazza Duomo incontra due ragazze, loro hanno una busta e in questa busta praticamente portano uno strumento. Lui e un suo amico stavano viaggiando con una mitica ape Piaggio e vedono queste due ragazzine e si dicono: dai, che ce le facciamo, ce le carichiamo sulla nostra ape, gli proponiamo uno scambio favorevole, gli diamo un passaggio. Ahimè, queste due ragazze che loro incontrano sono due tedesche, di cui una, appunto Franzi, è antipaticissima, non ha la benché minima idea di fermarsi con questi due italianucci, però in qualche modo il destino farà in modo che si incontrino. Francis, mentre lui è curioso di entrare nel mondo tedesco, in realtà lei anche è curiosa di conoscere un po' di più quello che è il mondo italiano e le propone di fare una gita in tandem, visto che un amico di Rudy se l'era costruito uno a Shanghai. Qui nasce il problema, perché in realtà Rudy sa benissimo che Shanghai non è che possa offrire un granché, cioè vuol dire non ci sono Valli Erker, il fiume bellissimo, non ci sono particolari attrazioni, e non ricorda di avere mai avuto la possibilità di poter apprezzare il suo quartiere, se non per il fatto che ci viveva e ci viveva bene. Ma invece Francis insiste. Attraverso di lei Rudy riscopre alcuni valori, per esempio riscopre la vicina chiesa di Regina Pacis, dove lui ha avuto un'esperienza particolare da bambino, perché era stato chiamato a inaugurare questa chiesa come piccolo attore e aveva fatto anche un gran rifiuto, perché nel corso di questa inaugurazione, dove lui era protagonista, era un bambino negli anni 60, era lui l'unico protagonista, insieme a una montagna, c'era il vescovo, c'erano i preti, c'erano folle enormi di gente, perché all'epoca la gente andava ancora in chiesa, E quando passava questo bambino con la veste candida lo toccavano come fosse un piccolo Gesù. Chiaramente questo bambino si è trovato immerso in questa celebrità da protagonista, non ha più, a un certo punto si è rifiutato, non ha più voluto continuare questa esperienza, e questa cosa se la ricorda e la dice a Frenzi. Anzi, visto che Regina Pacis è qui a 2 metri, praticamente io vi leggo questo piccolo passaggio, proprio è un passaggio. Poi ci immergeremo invece in argomenti ben più pesanti, poi parleremo anche un po' d'amore magari, no? Perché sennò diventa molto noioso. Ma fatemi che vi spiego questa cosa di Regina Pacis. Ora, Rudy si sta aprendo con la sua, con Francis, che non è ancora la sua ragazza, è un'amica poco conosciuta, e le racconta di questa esperienza, di quando appunto lui veniva in questa chiesa, l'avevano scelto e lui suo malgrado faceva l'attore. Sembravo più minuscolo della mia età, facevo compassione come un cagnetto chihuahua. Ogni sera percorrevo la corsia centrale dal fondo del tempio gremito. Salivo vicino all'altare con un corteo di enormi guardie svizzere. C'erano paggi in velluto verde o blu e calzamaglia, tutti con lo spadino o la alabarda. Un sacco di preti rotondi cantava, e io davanti a questa processione impressionante. Wow, ti vedo in Engelgleicher, Rudy, gorgheggiò lei divertita. Ero molto orgoglioso di apparire quasi avvolto da una nuvola le prime volte. Dalla croce sgorgavano 7 ruscelli di cartone che scendevano verso la terra e si disperdevano. Dal pulpito, nella mia veste candida, rispondevo col microfono alle domande di un prete. Domande solenni ogni sera le ripetevo a pappagallo, come mi avevano insegnato, che rinunciava a Satana. Ti immagini se non avevo paura del demonio così rosso e pieno di unghie? Recitavo molto seriamente cose grandi 100 volte più di me, tipo che non credevo nella fede, tipo che credevo nella fede, nella carità. La calca dei fedeli arrivava fin sotto agli scalini dell'altare. Ero stupito, molti piangevano di commozione, veramente, e soprattutto le donne. Quando percorrevo la navata centrale, molti mi toccavano la veste. Un bambino santo è ancora vivo, pensa che roba, un Gesù bambino che non ero. Scattavano i lampi, flash, flash. Ragazzini in bicicletta inseguivano per un po' l'auto di mio papà che mi riportava a casa dopo le funzioni. Ero finito sul giornale l'Alto Adige, un articolo per la piccola e inconsapevole star. A gonfiare la commozione, qualcuno aveva messo in giro la voce che era un orfanello adottato. Questo mi rendeva ancora più esclusivi, capisci Francis? Recitiamo parti che non abbiamo scelto a volte nella nostra vita. Le parlavo come non avrei fatto neanche con Siegfried, il mio amico. L'ultima sera doveva essere spettacolare, conclusione in gloria di una settimana magnifica, ma io a casa mi impuntai, strepitai con 1000 capricci. Non ne volevo sapere di tornare ancora qui a ripetere la recita. Mio padre aveva cercato di convincermi in ogni modo che avevo un impegno da rispettare, poi aveva riflettuto, infine, non dirmi che non sei più venuto in chiesa quella sera. E i tuoi hanno accettato, chiese Francis sbalordita. Forse che tale debolezza nei genitori non sembrava normale, lei era una tedesca. Questa è una delle cose più intense che ricordo, soprattutto di mio padre, dissi. Aveva compreso quel qualcosa che non sapevo esprimere. La sua umiltà era stata eccezionale, Francis. Non pretendeva, per vanità, che fossi un piccolo attore infelice. Ti rendi conto di cosa aveva fatto per me? Restituirmi il mio posto di bambino. E quindi questa è l'esperienza di Rudy, e con lei arriveranno a scoprire anche un luogo storico di cui non si conosceva l'esistenza fino a pochi anni fa. Ora, voi spero di sì, immagino di sì, avete mai sentito parlare del Lager di Bolzano? Bene, ora fino veramente all'anno 2006 quando venne trasferito e destradato un certo Misha Seifert, detto il boia di Bolzano, praticamente pochi sapevano dell'esistenza di questo lager a Bolzano. In realtà questa terra è stata particolarmente, uso un termine letterario, sfigata, perché tante delle disgrazie che sono venute all'Alto Adige su Tirol sono avvenute quando ormai la guerra stava per terminare. E qui, in questo caso qua, stiamo parlando del 1944, sostanzialmente da quell'anno è partita questa meravigliosa creazione che è stato il lager di Via Resia. Ora, noi di Shanghai non sapevamo, e neanche Rudy lo sapeva, che c'era stato un lager, ma invece Francis sì, per cui lo porta a vedere questa cosa. E tra parentesi, in questo lager è passato anche Mike Buongiorno, non so se lo sapevate, e la cosa è stata veramente drammatica, perché in quel posto sono successe delle nefandezze che noi ricordiamo per aver ascoltato nelle storie che riguardano la Shoah. Io mi sono letto gli atti del processo che era stato fatto sostanzialmente alla fine degli anni 60 ed era cose da accaponare la pelle. Il passo che vi voglio leggere adesso è un passo che non parla in particolare delle nefandezze, che pure sono descritte nel libro, ma il nostro protagonista Rudy, che non sapeva di questo lager, si sta mangiando un panino in via Bivio. Ora, c'è qualcuno qui in sala che sa cos'è via Bivio? All'epoca c'erano, tra le varie cose, c'erano anche dei frutteti, e con il suo tandem lui si porta in camporella, come si suol dire, Francis, e lì si stanno mangiando allegramente un panino. Siccome erano appena stati in Via Resia, dove avevano visto questo muro, hanno detto: ma che cavolo, guarda che cavolo di muro è, stanno rifacendo i palazzi e lasciano sto muro bruttissimo. Questa qua vuol dire che se fosse stato i tedeschi avrebbero già fatto dei bellissimi giardini, delle cose. Qui invece, visto che è Via Resia, lasciano sto muro. Lui non sapeva che era una memoria storica, invece Francis sì. E quando sono lì, mentre mangiano il panino, Francis gli dice che questo, guarda, dove siamo andati lì, sono successe delle robe pazzesche, è stato un vero e proprio lager, di quelli veramente terribili. E io adesso vi leggo un passaggio, perché è molto importante questa cosa qua. È Francis che sta raccontando questa cosa. Siamo nel 45. Il soldato aveva rubato qualcosa da un deposito dove faceva la guardia. Sta dicendo come è venuta a sapere questa cosa. Lei l'ha saputo da una sua zia che gli ha raccontato questa cosa tramite questo soldato che faceva la guardia. Questo soldato aveva rubato forse un paio di scarpe. Erano tempi duri. E a casa serviva di tutto, anche le scarpe. Era un tedesco e così lo avevano sbattuto a fare l'inserviente in quel lager. Aveva un trattamento da mezzo carcerato e mezzo inserviente. E qui ha visto cose che ti farebbero vomitare il panino, Rudy. Se ti spiegassi cosa mi ha detto zia Paola. Io il panino l'avevo già finito e con gusto. Ed ero uno che voleva vedere dove andava a parare la fanciulla. Ho lo stomaco forte. I nazisti, continuò, in questo erano proprio giusti, non deportavano solo gli ebrei e i dissidenti, c'erano mille altri buoni motivi per venire caricati su un treno spediti. Le SS sapevano come si dovevano trattare anche certi bambini insolenti, canaglie con la faccia ingenua, si meritavano un'educazione come si deve, altro che bacetti della mamma. Francis, ma dici sul serio? Avevo cominciato a osservarla con una certa perplessità. Non la conoscevo abbastanza. Certo, l'avevano combinata grossa quei monelli. Come potevano accettare senza ribellarsi i piccoli delinquenti di essere figli di genitori che avevano sbagliato religione? Iude, così c'era sempre spazio in quei vagoni, anche per loro. Bastava stringersi e respirare poco e pisciarsi addosso in piedi. Provenivano da Genova, da Milano, da Verona, da Parma, dal Südtirol, da tutta l'Italia. Quando stava per finire la guerra, i nazisti erano più irritati. Pensa, Rudy, questi piccoli che arrivavano con gli occhi sbarrati e pieni di paura, abbagliati dai fari nel lager di Via Resia, in attesa del grande balzo, oltre il confine. Dachau è stato così vicino a noi. Rimasi assorto, avevo un blocco, un rifiuto mentale. Ah, questa mania del noir, anche Franti si metteva adesso. Pensavo che qui eravamo in Italia e le storie più crude sui campi di sterminio che conoscevo erano quelle di Primo Levi, e le storie tristi e struggenti stavano ancora più lontano e riguardavano magari l'Olanda e Anna Frank. Il male da qui era passato a prendersi le anime, ma di sfioro. Il male vero era confinato in un focolaio che tutti avevano individuato. Il male era annidato in Germania. Francis del resto era troppo giovane come me per sapere cosa fosse accaduto veramente. Anch'io avrei potuto infiorare, si fa per dire, queste cose. C'era una pappardella di documentari pietosi che avevamo visto tutti, e poi i film di genere. Per carattere odiavo un certo compiacimento truculento. Non mi andava di partecipare a uno stupido sport dove si aggiungevano particolari atroci, i nazisti dappertutto, un aleggiare da vampiri, una moda, oscena. Quello che non si sapeva bisognava inventarselo per forza. E se non era vero, bastava che fosse verosimile. E allora avanti tutta, condire le storie, renderle più intense, più tragiche, ma che cazzo! Non aveva senso portare i sentimenti. Su queste cose non si poteva scherzare. Lo aveva detto proprio Primo Levi, che dopo Auschwitz non c'era più posto nemmeno per la poesia. Figurarsi per le frottole. Francis, perché mai provava a sorprendermi in quel modo? Quale reazione si aspettava da me? Anche i nazisti super cattivi in Via Resia ora. Ci bastavano già le rogne con i terroristi. Quella era roba vera e attuale. C'era bisogno di altro? Le mie occhiette diffidenti suscitavano in automatico nuovi collegamenti di pensieri e richiamavano alla mente Poe, Shelley, Stoker, racconti truculenti, invenzioni che avevano uno scopo innocente, frugare nella misteriosa ambiguità umana, divertire con la paura e lo scandalo. E c'era un buon motivo anche per certi affreschi medievali stupefacenti. Ecco il trionfo della morte, piazzato in chiesa dai domenicani. Un fumetto impressionante. La morte cavalca verso giovani vite in battaglia. Due vecchi osservano terrorizzati il suo passaggio. Solo per ora li ha risparmiati. È l'annuncio fotografato di un tremendo castigo, di un fatto ineluttabile che ci coglierà tutti senza preavviso. Memento mori. Ricordati che schiatterai, ragazzo. Ai loro piedi si squarcia una crepa, appare un rossore infernale. Ma tutto questo aveva un senso. Spaventare un popolo ignorante, scoraggiare gli istinti cattivi, denti, forche, fuoco, morte. Ma ora che valore aveva? Calcare la mano, bella questa, il campo di concentramento a Bolzano, come ad Auschwitz, a Dachau. Ma per piacere, Francis, esplosi, manda a cagare chi ti ha raccontato certe minchiate. Nessuno ne ha mai parlato, sarà un caso, nei giornali e neanche la televisione. Noi ragazzi non meritavamo di farci infinocchiare dalle ciance di qualche stupido con la fregola dello scoop. Posto che sia mai esistito, sarà stato un campo di transito. C'è una differenza abissale. Se era un campo di transito, non è stato un campo di sterminio. Mettiamo i puntini giusti. Ovvio che non sarà stato un albergo, ma almeno il marchio di seviziatori se lo ciucciano tutti i cruchi. Osservai Francis, sicuro che aveva fatto una gaffa sopra l'altra. Lei era tedesca e italiana, o tedesca e basta, che parlava benissimo l'italiano. Insomma, la parentela nella lingua poteva avere un risvolto di responsabilità. Una specie di peccato originale che mai avrei voluto addossare a quella creatura. Precisai con imbarazzo: i tedeschi di Germania, già? E quindi, insomma, a questo punto lui viene a contatto con questa realtà drammatica del lager. Perché vedete, questo libro, oltre che a tracciare la storia d'amore di Francis e Rudy, di cui adesso poi magari vi leggerò qualche brano perché stacchiamoci da questa atmosfera truce e sociologica, vorrei parlare anche un po' d'amore. In realtà, diciamo, in questo percorso ci sarà un accompagnamento a vedere delle cose meravigliose dell'Alto Adige, perché l'Alto Adige è una terra bellissima. Per esempio, andranno al Virgolo, dove c'è una chiesetta meravigliosa, dove ci sono le storie di San Vigilio. Non è quella chiesa che si vede dall'autostrada, quella che è una chiesa seicentenaria, ma ce n'è un'altra più antica che è dentro un maso, bisogna suonare per entrare, dove ci sono degli affreschi bellissimi di San Vigilio, dove c'è l'indemoniata che butta fuori, dove c'è una ragazza indemoniata che butta fuori dalla bocca il demonio e viene liberata. Oppure, per esempio, un certo punto andranno a fare una gita meravigliosa in Val d'Ultimo. In Val d'Ultimo c'è uno degli spettacoli della natura più importanti del nostro paese, i famosi Urlerchen. La signora mi aiuta perché vedo che scuote il capo e dice che sono... Sì, che sono questi alberi secolari. Perfetto, perfetto. Sono alberi che non hanno centinaia di anni, hanno oltre 2000 anni. Sono alberi che praticamente hanno vissuto sostanzialmente l'epoca di Cristo, insomma. Quindi sono veramente un monumento naturale che io avevo scritto questo libro senza averli veduti, e poi sono andato quest'estate a goderneli veramente in santa pace, ad abbracciarli, perché sono uno spettacolo. Peccato che vicino abbiano fatto un po' spostata una pizzeria, ma gli perdoniamo sta cosa. E sono queste cose che resistono, praticamente hanno visto passare imperi, hanno visto gli Unni, hanno visto Napoleone, Andreas Hofer e tutta quanta la prima guerra mondiale, la seconda, e loro là praticamente resistenza passiva hanno vissuto. Quindi si parlerà anche di questo. Prego. Di resilienza. Sì, sì, sì, esattamente, è proprio questo, di resilienza, no? E questa cosa è stupefacente. No? Poi, per esempio, un'altra cosa che mi è piaciuto rappresentare in questo libro, ne accenno senza parlarne direttamente, di un autore eretico altoatesino, e si chiama Norbert Kaser. Norbert Kaser praticamente è un autore morto di Brunico, o Brunico, come si dice? Si dice Brunico o Brunico? Non lo so. Brunico, diciamo alla tedesca. Questo signore qui, praticamente, ha scritto delle poesie meravigliose e terribili, ha scritto dei racconti. Diciamo subito che lui era un maestro elementare, incompreso dai suoi conterranei, perché lui sicuramente era un uomo trasversale, nel senso che era un amico di Langer, per esempio, il quale a un certo punto ha cominciato a bere sodo, tant'è che nella sua ultima, una delle ultime poesie si chiama Ich krieg ein Kind, praticamente dice io porto un bambino, ed era la sua pancia che cresceva perché mi stava morendo di cirrosi epatica. E quest'uomo qua, dolcissimo, praticamente tra le varie cose ha scritto un racconto che io ho riportato qui dentro, raccontato da Franzi. Dice che lei ha conosciuto un ragazzo sul treno mentre andavano in vetturina verso Merano, e racconta questa cosa, di questa bella favola che mi piace raccontare, la favola di un drago. Questo drago era un bestione terribile, ne avevano paura non soltanto i cacciatori ma anche i cerviatti, per esempio. E quindi era costretto dalla solitudine a vivere questa vita spaventosa. Lui non era cattivo di suo, perché in realtà quando era a mezzogiorno, tutto intorno viveva in questo bosco profondissimo, andava in un prato, si metteva a pancia all'aria e sembrava un grossissimo pallone che avrebbe fatto la felicità dei bambini, se non che purtroppo là non c'erano bambini e lui era veramente molto triste. Il senso di questa favoletta messa nel mio romanzo è quello di dire che a volte purtroppo la predestinazione ci condanna ad esercitare un ruolo incredibile, di grande difficoltà. Purtroppo noi siamo portatori di un destino che possiamo piegare in parte, ma in parte invece ne siamo vittime. È ricorrente quest'idea del, destino e della predestinazione nel mio libro. Per esempio, cito anche una scritta molto antica che voi potete trovare se avete la fortuna che ve la facciano vedere a Castelmareccio, si chiama il quadrato magico, il quadrato del Saturno. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Questa roba qua, praticamente da qualunque parte voi la leggete, si leggono sempre le stesse cose. E poi ci sono dei simboli magici, perché in mezzo si forma una croce dove c'è l'alfa e l'omega, quindi per gli antichi cristiani lì, e anche per la cultura ebraica, l'inizio e la fine del mondo. E sopra sta roba qua praticamente hanno ricamato un miliardo di cose, tant'è che si pensava che fosse un simbolo cristianissimo, poi anche i cavalieri templari lo portavano, sembrava che liberasse dal malocchio, insomma, in ogni caso sempre associato all'iconografia cristiana, alla mitologia cristiana, sino che a un certo punto qualcuno scopre che su una casa di Pompei trovano sta cosa qua. Siccome Pompei è stata distrutta dal vulcano, mi pare nel 33 dopo, quanto? Nel 60, 60, scusate, nel 69 dopo Cristo, era praticamente impossibile che già ci fossero dei cristiani, al massimo c'era qualche, quindi questa cosa qua non poteva essere attribuita, questo ha scombinato le carte di tutti. Però a me interessava soprattutto una cosa, perché questo messaggio magico dice Sator, cioè il seminatore, che potrebbe essere visto anche come Dio, Arepo Tenet, cioè Sator, Arepo Tenet, il seminatore guida il carro e le opere. Quindi praticamente è come se una forza che non dipende da noi predestinasse le nostre azioni. Allora mi piaceva metterlo dentro questo giochino magico, poi lo trovate anche disegnato nel libro, ha un valore simbolico veramente potente. Il senso della predestinazione domina anche questo libro, perché il destino di questa ragazza, soprattutto di Francis, lei dirà tu sei un ragazzo libero, io invece sono una che deve vivere come una formica in un popolo di formiche, perché lei è una tirolese. E questa cosa è tremendo, perché succederà un fatto incredibile in questo libro. A un certo punto, e questo lo devo rivelare, uno zio avrà uno strano incidente, rimane quasi cieco. Subito si riporta questo fatto a un incidente provocato da qualcuno che l'abbia voluto volontariamente buttare giù per un pendio e farlo diventare quasi cieco. Questa cosa si riallaccia al terribile periodo delle opzioni, quando probabilmente ci sono stati dei fatti inquietanti che sono successi in questo territorio, e gli stessi tedeschi tra di loro erano divisi. Però prima di raccontarvi questa storia, perché non voglio affliggervi troppo, vi leggo un pezzettino d'amore. Mi piace raccontarvi un momento in cui il nostro amico Rudy non è ancora cosciente di essersi innamorato di Rudy, però sente, non so, c'è qualcuno di voi che è stato innamorato qualche volta? È successo? Succede? Bene, allora sapete che l'amore ha questa potente virtù di riscaldare il cuore e di raffreddare le mani, no? E lui è lì nella sua camera, che non sta dormendo ed è in un posto strano. Adesso noi leggiamo un passaggio di questa cosa qua. Alcune sere restavo sveglio fino a tardi a leggere nel letto. In certe condizioni miracolose mi riusciva persino ad insinuare che in fondo Francisca mi era completamente indifferente. Le occhiette nella mia testa, per quanto oche, suggerivano con apprezzabile buon senso che non avevo motivo di palpitare per una sconosciuta qualsiasi, una crucca poi, a volte persino antipatica. questi ragionamenti anestetici mi consolavano parecchio per 2 o 3 minuti. Malgrado tali prove di equilibrio quasi agostiniano, nel buio poi mi ritrovavo in piedi a guardare fuori dalla finestra della camera per ore con un bicchiere di latte in mano, in una strana situazione di latente tensione nervosa. Lo spettacolo era assolutamente poetico. Il panorama si stendeva sul deposito di ferri vecchi, pellami, vetri e materiali di recupero di un certo benemerito Fantini. Aiutava ad evocare un'atmosfera empatica di grigiore cupo e putrido. Certe notti da quel deposito provenivano avamposti di corpulente pantegane. Le bestie si arrampicavano chissà come salendo su per i muri grumosi fin sul terrazzo del primo piano dove vivevamo. Benché fossero decisamente già ben nutriti, i roditori tentavano di fare la festa alle tortore che mia madre allevava in gabbia per il solito amore egoista verso gli animali. Nel suo caso particolare, anche per un estremo legame a quella vita agricola da dove a suo tempo era stata spiantata a forza. Custodiva questi uccelli stonati come si allevano dei canarini. Non sempre le trappole funzionavano. Quando erano più in forza, le pantegane spezzavano con i dentini la rete e al mattino le tortore giacevano inerti, con il colletto blu insanguinato, come simboliche vergini, straziate vittime di vampiri, sottratte ad un destino più umano da prigioniere. Mentre vagolavo nella stanza in una di quelle notti, mi parve di dovermi dedicare un verso. In certe situazioni c'è chi si compra qualcosa, un dono per coccolarsi, e chi magari si fa un bicchiere di alcol. Pensavo storicamente che un vero poeta, anche se soffre da cane, deve fissare sulla carta tutti gli strappi della sua vita, e questa era la mia sorte. Cercai l'essenzialità della mia pena. Snoopy di Schulz era stato più fortunato di me a creare il suo incipit. Era una notte buia e tempestosa. Quelle erano veramente le parole giuste per marcare ciò che mi bruciava. Stupido chi sottovaluta l'arte suprema di Snoopy. Un buffo cagnetto mi aveva fregato il copyright per l'eternità. Scrissi questa cosa che mi pareva un distillato del mio insulso trepidare. Non so se nella realtà Franziska meritasse questa tensione. Forse era solo un azzardo del cuore. Intanto mi tenevo stretto l'idea di lei. Avevo scelto i versi con passione. Quella notte credo che soltanto Ungaretti avrebbe potuto cogliere la mia ermetica inquietudine. Strano tepore ed occhi lacrimosi del forte liquore. Legato al letto di sasso, faticosa si svolge la notte, dilatata e pensosa. Talvolta i versi e le parole dei poeti assomigliano tremendamente alle frasi comuni se si scorrono di fretta e la gente pensa che siano espressioni banali. Accade lo stesso per certe figure solo in apparenza semplice, per esempio quella degli haiku giapponesi, ma dentro c'è sempre un pezzetto di anima che si lascia e a volte le parole sembrano solo buchi, come nelle tele bianche di quel pittore, Fontana. Dentro c'è una macerazione di soluzioni che può portare anche a impazzire o all'estasi per un momento, come accade sempre per le anime strafatte di sentimento che credono nelle piccole creature, figlie dell'alfabeto o dei colori e della propria sete di rivelazione. Per me più o meno era così. E quindi questo Rudy comincia la sua storia d'amore con la bella Francis. Francis è una ragazza estremamente sensibile, una pianista. Lei studia al Conservatorio Monteverdi e soffre particolarmente di una situazione particolare. Il fatto di sapere che in famiglia può accadere un fatto incredibile. Lei ha un padre di cui è follemente innamorata. La mamma si è suicidata, tanto per dirla, e lei ama visceralmente suo padre. A un certo punto aleggia la possibilità che il padre sia stato un collaborazionista dei nazisti. E questa cosa le logorerà i nervi. Probabilmente Fran, probabilmente Rudy, giovane, non è abbastanza bravo ad aiutarla a superare questa cosa. Lui è in grado di darle affetto, di sostenerla, però lei è troppo sola in questa vicenda. E naturalmente questa cosa la porterà a delle soluzioni che non voglio raccontarvi per non privarvi magari il piacere della lettura, se sarà. Nel libro, quindi, grazie anche alla memoria di mia zia, si parla di quel periodo terribile delle opzioni, quando questa povera gente è stata messa di fronte al fatto compiuto che dovevano decidere se lasciare la loro terra oppure rimanere. Diciamo che sono stati strafregati, perché praticamente già alla fine della prima guerra mondiale, lo stesso, tanto per capire, c'era lo stesso, il famoso martire trentino Cesare Battisti, anche lui era convinto che il confine si sarebbe dovuto fermare a Salorno. E questo fatto qua, invece, ogni volta c'era questa aspettativa, e irrimediabilmente ogni volta invece il confine lo spostavano verso le Alpi. Addirittura poi alla fine si era stata inventata questa cosa che le Alpi dovevano costituire un confine cosiddetto naturale, per cui a un certo punto Adolf Hitler e il mascellone, che nel 1939 si erano incontrati, avevano stabilito questa bella idea, ha detto: va bene, io ti lascio spaziare, mio caro Adolf, col tuo bel affetto in giro per l'Europa, però tu non rompermi le scatole con la questione su tirolese. E questo, che all'epoca Mussolini è stato il maestro di Hitler, chiaramente fanno questo patto, e quindi si conferma che il Sud Tirol deve rimanere tedesco, dando questa bellissima opportunità. Sarebbe come voi stasera, dice: ragazzi, se volete, o diventate tutti di madrelingua tedesca se siete italiani, o se siete tedeschi diventate tutti di madrelingua italiana, e via andare. La cosa interessante e simpatica è che prima avevano vietato lo studio della lingua tedesca, per cui a un certo punto un benemerito Gamper si era inventato le cosiddette catacombe in Schulen e aveva permesso ai bambini tedeschi di continuare a parlare il tedesco. Però nella generazione, chiamiamola, dopo la prima guerra mondiale, abbiamo avuto un insieme di cittadini tedeschi molto ignoranti, perché dovevano studiare per forza nelle scuole italiane e l'italiano lo capivano male. Di contro non imparavano mai abbastanza bene il tedesco, se non il dialetto di qui, per cui di fatto è stata una generazione anche bruciata da questa cosa qua. Ma facciamo un salto nel 1969. A un certo punto, voi sapete che c'è una bellissima, posso chiamarla manifestazione, si chiama Herz Jesu, nel senso che i contadini, memori della vittoria che c'era stata sui napoleonici da Andreas Hofer, avevano poi inneggiato a questo personaggio che aveva liberato il Sud Tirol dal giogo napoleonico, ed era diventato anche in un certo senso il simbolo della liberazione del Sud Tirol dal giogo all'epoca italiano. Ora, a un certo punto, la scena che vi leggo funziona così. Siamo vicini al periodo, appunto, di Pentecoste. C'era una funivia a Bolzano che era quella che portava al Virgolo. Si stanno preparando intorno le cataste di legna, e la nostra Francis dice: guarda che spettacolo, stasera si farà festa, ci saranno questi fuochi. Rudy, che è un ragazzo italiano, avete presente la settimana enigmistica, no? Dove si vedono i cannibali col pentolone che preparano la cosa, invitano a cena? Ecco, sembrava una roba del genere, per cui lui dice, ma no, che cosa, che roba è, sarà mica bella questa cosa qua che evoca le bombe, insomma, la dipinge in modo brutale, tant'è che Francis a un certo punto non gli rivolge più la parola finché non arrivano nella bella chiesetta che c'è sul Virgolo e entrano dentro in questa chiesa dove ci sono degli affreschi stupendi e invece succede quello che vi leggo adesso. Che meraviglia, dissi accostandomi ad un affresco incredibile. L'umidità non aveva minimamente scalfito il magnetismo di quei segni che in qualche quadro erano soltanto scarni graffiti sfumati. Evocavano la dolcezza delle storie di Maria e del Santo Vigilio. Mi ero soffermato su un particolare, l'istantanea così ingenua e curiosa del vescovo che libera l'indemoniata. Tu sei proprio un fanatico che non capisce un cazzo di niente! Francis mi assalì da dietro con le sue parole aguzze. In quel silenzio mistico risuonarono come uno sparo. Mi girai di scatto, impreparato a quell'uscita. Lei era appoggiata a braccia conserte, quasi protetta ad una parete. Io, fanatico, io, ma sei matta? Io mica vado in giro con la dinamite. Non ne posso più, non ne posso più di quelli che mi tirano di qua e di là. Io voglio essere libera, capisci Rudy? Libera di dire che la mia gente ha subito un sacco di crudeltà. Ha diritto di farlo sapere pacificamente. I tempi stanno cambiando, è giusto aprire le porte, dare aria. D'accordo, d'accordo, devono cambiare anche quei testardi dei miei. C'è ancora bisogno di odio. Siete insopportabili tutti quanti, voi e i vostri pregiudizi. Io? Che razza di pregiudizi ho io? Chiesi, ma Francis non mi ascoltava. Voglio dire che mi piace o che mi fa schifo qualsiasi cosa, ma senza pensare che devo sempre tener conto di qualcos'altro. Io sono Franziska, Franziska e basta, Franziska e basta, hai sentito Rudy? Ho urlato, anch'io, non ne potevo più, ero esasperato. Puoi smetterla finalmente con tutte queste paranoie? Francis aveva abbozzato una reazione, poi si era trattenuta. Infine mi aveva chiesto addirittura scusa, ancora quasi gridando, come per marcare la grande distanza di incomprensione che ci separava. Provai per lei una pena incredibile, anche se ero scosso e comunque risentito. Mi ero avvicinato, tentai di abbracciarla, ma era così nervosa. Per farla finita avrei acceso io, solo per lei, 1000 cuori in quella prossima notte di Arziesu. Tu non sai quanto detesto certe cose, sussurrò Francis, sottraendosi da me, mentre si rasserenava un poco. Io vorrei chiudere questa lunga carrellata. Naturalmente ho lasciato indietro un miliardo di cose che avrei voluto raccontarvi. Vorrei terminare con un passaggio. La strana distanza dei nostri abbracci ha un titolo simbolico. Dice di due popolazioni che fisiologicamente erano portate ad abbracciarsi, perché gli uomini hanno bisogno di abbracci. C'è anche un movimento indiano che prevede che le persone, che va in giro per il mondo ad abbracciare, quindi abbiamo tutti bisogno di abbracciarci. Ne avevano bisogno anche le persone italiane con i tedeschi qui in città, ma non era aria. Simbolicamente è anche la storia di Rudy e di Francis, perché per qualche ragione nemmeno Rudy e Francis riescono a fare l'amore per un problema che riscoprirete leggendo questo libro. Purtroppo le capita quando si avvicina anche alle persone che ama, e in certi momenti che Francis viene da vomitare. Questo passaggio è la sera in cui avviene lo sbarco della Luna, quindi parliamo del luglio 1969. Un gruppo di amici, sono ragazzi beat, decidono che non è il caso di andarsi a guardare in televisione con milioni di italiani, vanno al lago di Monticolo. Loro sono ragazzi alternativi, poi neanche più di tanto perché comunque si porteranno una radio, ma in questa serata magica io ci sono tornato stamattina ai laghi di Montipolo, sono rimasti quasi come erano tanti anni fa, c'è solo un albergo infatti, per fortuna, parte nuovi parcheggi, e ecco, era ghiacciato stamattina, questa invece è una notte di luglio, loro con l'ape vanno con un gruppo di amici intorno al lago, si portano un sacco da bere, Johnny Walker, tanto alcol, si ubriacano quasi, e poi lungo il lago succede quello che io vi leggo. L'unghietta in alto, il pezzetto che ci meritavamo, splendeva in un catino enorme, blu, screziato di innumerevoli barlumi in concorrenza di bellezza. Infiniti punti da congiungere, come nei giochi della settimana enigmistica. Potevamo inventarci qualsiasi disegno con le stelle. Qualcuno propose che si tornasse tutti all'arenile. In una notte così, dovevamo per forza invocare la Vergine. Venne il momento di Francis. Lei tolse i sandali, un poco vacillante, ed entrò con i piedi nell'acqua. Per fare pochi passi aveva dovuto sostenersi a me, e ora rideva per ogni niente, aveva un'espressione disarmata. La sua strana euforia mi trasmetteva una sensazione commovente e simile a quella angelica che a volte infondono certi bambini disabili. Chiese alla luna una tana per noi due, là in alto. Si era girata verso di me, ammiccante, come se volesse supplicarmi di perdonarla. Chiese anche un letto bianco da farci l'amore insieme. Mi era corso un brivido lungo la schiena. Non mi aspettavo che Francis se ne uscisse a quel modo. Mi aveva colto una sensazione di tenerezza, ma era qualcosa di più struggente. Aveva bevuto troppo, io sopportavo meglio di lei. Mi pareva di doverla difendere anche da se stessa. L'Annalisa, la nostra amica, andò a infilare nella fessura del giradischi un disco dei Bee Gees. Era un lento, ballammo come coppie predestinate. La notte chiamava, di tanto in tanto una risatina svelava che nel guancia a guancia c'era chi aveva bisbigliato qualche nuova scemenza per dovere di leggerezza. Francis stava avvinghiata a me, premuto il suo ventre contro il mio, un poco mi girava la testa e sentivo i sensi così gradevolmente eccitabili. Sudavo, esigevamo infiniti, incontenibili baci sulla, nella e dentro la bocca, ed eravamo entrati insieme in un altro regno. La presi per mano e Francis si lasciò condurre. Ci discendevo sul vecchio plaid, ce la rotolammo addosso, stavamo in un bozzo. Con trasporto, quasi con furia, la carezzavo. Lei lasciava fare con sorprendente disponibilità. Mi abbandonavo alla trasgressione, in balia di quello stato di grazia. Francis accettava il mio ardore, frettoloso, le carezze goffe, come una madre quando allatta il proprio piccolo vorace. Lui aveva bisogno di nutrirsi e l'insaziabile a volte le mordeva un capezzolo. Ora sapevo che la nostra spontaneità poteva giustificare qualsiasi pazzia. Volevo fare all'amore con lei, sapevo che quello era il nostro momento completo. Con pazienza era venuto il tempo di annunciare al cielo il nostro appartenerci. Invece la Dea Luna aveva deciso diversamente per noi. Irruppe dentro al mio cervello come una scheggia ed era un'intuizione spiacevole, niente più che un'inezia permalosa. Bastò interrompere lo stato di assoluta meravigliosa perdizione. Francis non era padrona di se stessa, così abbandonata nella fragile ilarità che non le conoscevo. Con rammarico, con dolore, improvvisamente mi ero reso conto che la nostra fantastica intimità era niente. Peggio, artificiale, quasi disonesta. Ma questa consapevolezza, incresciosa, durò solo un niente. Un'urgenza più forte, incontenibile, mi richiamava nuovamente a lei, al suo corpo. Sospendevo il buon senso, tutto ciò che facevamo era giustificabile in nome del nostro amore, troppo a lungo soffocato. Quello solo era vero. Continuai a stringerla, a toccarla, a cercare il calore tra le sue gambe, nel ventre, sui seni, quasi scavando con le mani come un folle tra gli indumenti. Pretesi che mi stringesse, che mi toccasse. Lei mi assecondava, docile, con tutta la devozione che poteva. Erano trascorsi solo pochi minuti in quello stato quando Francis si rivolse a me con un tono di lieve noncuranza. Mi pregò quasi fosse una sciocchezza da non farci troppo caso. «Scusa, spostati, solo un attimo, Rudy, scusa, mi viene da vomitare. Ci eravamo alzati in fretta. Lei si era discostata di qualche metro ed era andata a rigettare tutta la miscela, la mistura liquida, velenosa. Stavo ancora in preda all'eccitazione, ma ero così scontento di noi, ancora più di me stesso. Il significato della nostra passione si mescolava in quella poltiglia maleodorante. Cercai nello zainetto qualche tovagliolo di carta. La raggiunsi, le tenni la fronte e le asciugai il viso. «Come va ora?» le domandai premuroso. «Meglio, Rudy. Mi dispiace. Non importa. Ho freddo», sussurrò in quella notte di luglio inconcludente. E qui direi che è tutto terminato. Ci saranno molte altre avventure a Castelroncolo e poi giù per altri episodi particolari. Insomma, è anche un'esperienza di grande possibilità di conoscere la nostra terra attraverso gli occhi di due italiani. Io che devo dire? Grazie. Se qualcuno ha qualche domanda. Grazie. Altrimenti, come si può dire? Hai spiegato che è tutta fantasia, però noi ci siamo domandati tante volte dove potesse essere, e l'abbiamo letto già, ma dove potesse abitare Franziska, se era in Dove, se era sotto i portici. Questa è una bella domanda. Le chiederei di aiutarmi a immaginare. Io ho immaginato che abitasse praticamente di là del Ponte Talvera, dove proprio ortogonale alla via Museo c'è una strada dove ci sono dei bellissimi palazzi con delle cuspidi, e quindi sono dei palazzi anche abbastanza prestigiosi. Come si chiama? Ecco, però onestamente non posso dire, così come l'ambientazione di Via Paola, che è una specie di cortile cittadino, però molto particolare, è una ricostruzione, insomma. Quindi poi se voi lo trovate fatemelo sapere, che mi farebbe piacere moltissimo. Noi abbiamo un'idea, diciamo, più addentro ancora nella città, che è quella che va la zona, cioè via del Suf, la parte storica, quella che va verso nord, verso Fiorentino, quella che chiamano Indolfo. Sì, sì. Noi bene, grazie molto. Grazie.